Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Il caso volle che 3 giorni dopo Federico si imbattesse in Sisi. Il nobiluomo si comportò correttamente e l'invitò persino a cena per il mercoledì seguente. Proprio quel mercoledì di mattina, uno sciere notificò a Federico un atto mediante il quale il signor Giovan Battista Audry gli comunicava, a termini di una sentenza del tribunale, d'essersi reso acquirente di una proprietà sita a Belleville e già appartenente al signor Jacques Arnoux, ma risultando dall'atto in questione che la somma delle ipoteche gravanti sull'immobile superava il prezzo convenuto, il credito di Federico era completamente perduto. Tutto il guaio era di non aver rinnovato in tempo utile l'iscrizione ipotecaria. Era stato Arnoux a incaricarsi di quella formalità, ma poi se n'era dimenticato. A Federico venne una gran rabbia contro di lui, ma poi, quando gli fu passata, dopo tutto, se può servire a salvarlo, tanto meglio. Non morirò per questo, non pensiamoci più. Dopodiché s'era vestito per andare alla Maison d'Or. Sisi presentò gli invitati, cominciando da quello che incuteva più rispetto, un signore corpulento con i capelli bianchi, il mio padrino, marchese de Saulnay, il signor de Forchambault, e poi, indicando un quarantenne assai semplice di modi, Giuseppe Beaufreux, mio cugino, e questo è il mio ex professore, il signor Vesoux, personaggio quest'ultimo per metà carrettiere e per metà seminarista. Sisi stava aspettando ancora qualcuno, il barone di Comminges. Può darsi che venga, non è sicuro. Tutti i momenti andava a vedere, sembrava inquieto. Alla fine, erano le 8, passarono in una sala magnificamente illuminata, fin troppo grande per il numero dei commensali. Sisi l'aveva scelta appositamente per fare effetto. Federico, arrivando, era pieno di risentimento verso Sisi, ma poi la stupidità del nobiluomo l'aveva disarmato. Però i suoi gesti, la sua faccia, tutta la sua persona, nella misura in cui gli ricordavano il pranzo al Café Anglais, tornavano a poco ad irritarlo. Poi, tutto a un tratto, «Ah, ecco il barone!» S'avanzò un pezzo d'uomo sulla trentina, con un che di rude nei lineamenti e di snodato nelle membra, cappello inclinato sull'orecchio e fiore all'occhiello. Era l'ideale del visconte. Sisi rivolse poi a de Comminges una quantità di domande su persone che nessuno dei presenti conosceva e a un certo punto, come colpito da un'idea, «A proposito, si è ricordato di me?» Il barone alzò le spalle. «È impossibile, ragazzo mio. Non ha ancora l'età.» Sisi si era raccomandato che lo facesse ammettere al suo club. Evidentemente impietosito dell'amor proprio del visconte, l'altro riprese. «Ah, dimenticavo! 1000 felicitazioni per quella sua scommessa, caro amico!» «Quale scommessa?» «Ma quella che ha fatto alle corse, di andare la sera stessa in casa di una certa dama!» Federico sentì come un colpo di frusta. Ritrovò subito la calma vedendo la faccia imbarazzata di Sisi. In effetti la marescialla, il mattino dopo, era già belle pentita. E proprio in quel giorno era ricomparso Arnoux, il suo primo amante, il suo uomo. Insieme avevano fatto capire al visconte che era di troppo e l'aveva sbattuto fuori senza troppe cerimonie. Sisi fece come se non cogliesse l'allusione, ma il barone insisteva. «Che ne è di quella cara Rosina, eh? Le sue gambe sono sempre così belle.» Provando con tale battuta di averne una conoscenza intima. La scoperta diede fastidio a Federico. «Non è il caso di arrossire», continuò il barone. «È merce di prima qualità.» Sisi fece un verso. «Non così straordinaria, poi, via.» «No, ma no, francamente. Prima di tutto non ci vedo niente di eccezionale. E poi, donne come lei se ne trovano quante se ne vuole. Dopotutto è in vendita.» «Non per tutti», intervenne acre Federico. «Crede di essere diverso dagli altri», replicò Sisi. «Non è spassoso.» Una risata percorse la tavola. Federico sentiva battere il cuore al punto di soffocarlo. Inghiottì uno dopo l'altro 2 bicchieri d'acqua. Ma il barone serbava un buon ricordo di Rosanette. «Sta sempre con un certo Arnoux.» «Oh, non ne so niente», disse Sisi. «Non conosco quel signore.» Ciò nonostante, avanzò l'ipotesi che fosse una specie di sfruttatore. «Un momento!» esclamò Federico. «Ma andiamo, è una cosa sicura. Ha avuto anche un processo. Non è affatto così!» Federico si mise a difendere Arnoux. Ne garantiva l'onestà, finendo per crederci lui stesso. Inventava le cifre, le prove. Il visconte, pieno di rancore e mezzo sbronzo, fra l'altro, s'ostinò nelle sue asserzioni, finché Federico gli disse in tono grave «È forse per insultarmi, signore?» e lo fissava con pupille che ardevano come la punta del suo sigaro. «Nemmeno per sogno, anzi, ammetto volentieri che qualcosa di buono, di molto buono, ce l'ha sua moglie. La conosce? Diamine, Sofia Arnoux! E chi non la conosce?» «Come ha detto?» Sisì, alzatosi in piedi, ripeté balbettando. «E chi non la conosce?» «Stia zitto, donne così lei non ne frequenta di certo!» «Per mia fortuna!» Federico gli lanciò un piatto in viso. Radendo la tovaglia come un baleno, rovesciò due bottiglie, demolì una fruttiera, poi, esploso in tre pezzi contro il trofeo, percosse al ventre il visconte. Dato che al momento del lancio tutti i commensali stavano parlando, risultò impossibile scoprire se l'oltraggio avesse riferimento ad Arnoux, a Madame Arnoux, a Rosanetto o a qualcun altro. L'unica cosa sicura era la brutalità inqualificabile di Federico, il quale si rifiutò di fatto di testimoniare il minimo rincrescimento. Ci si mise Désaulnais a cercare di rabbonirlo, poi il cugino Giuseppe, il precettore e persino Forchambeau. Il barone, nel frattempo, stava confortando Sisì, che in preda a una crisi di nervi era scoppiato in lacrime. Federico, al contrario, si sentiva via via più irritato. E sarebbero rimasti così sino al mattino se il barone, per venirne a capo, non avesse detto «Domani, signore, il visconte le manderà i suoi padrini. L'ora, mezzogiorno, se le aggrada. Perfetto, signore». Una volta fuori, Federico respirò a pieni polmoni. Da troppo tempo tratteneva il suo cuore. Ora l'aveva soddisfatto finalmente e sentiva come un orgoglio virile, un inebriante scatenarsi di forze interiori. Aveva bisogno di due testimoni. Il primo che gli venne in mente fu Régimbard e si diresse subito verso un locale in Rue Saint-Denis. Gli espose brevemente la faccenda e chiese la sua assistenza. Il cittadino, tanto per cominciare, non rispose. Roteava gli occhi, si dava l'aria di riflettere, fece parecchie volte il giro della sala e finalmente... Sì, con piacere. E un sorriso omicida gli rischiarò il volto quando seppe che l'avversario era nobile. Lo faremo saltare come un merlo, stia pur tranquillo. Intanto la spada... Ma forse, obiettò Federico, non è a me che spetta. Le dico che ci vuole la spada! Replicò brutalmente il cittadino. Sa tirare? Un po', un po'. Ecco come siete tutti quanti. E avete la mania di sfidarvi a duello. A che vuol mai che serva la sala d'armi? Dia retta a me, si tenga bene a distanza. Si chiude in circolo, sempre. E rompere, rompere, è consentito. Lo stanchi a dovere, poi andargli addosso deciso, a fendenti. E soprattutto niente piccole furberie, niente colpetti tipo la fougère. No, no, no, no. Semplici uno, due, disimpegni. Ecco, vede? E girava il polso come per aprire una serratura. L'indomani di buon'ora Federico corse al negozio di Dussardier. Dopo un'infilata di locali pieni zeppi di stoffe, avvistò l'amico in piedi dentro una gabbia traforata, circondato da registri e in atto di scrivere su una specie di leggio. Il bravo ragazzo abbandonò immediatamente tale bisogna. I testimoni arrivarono prima di mezzogiorno. Federico giudicò di miglior gusto non assistere agli accordi. Il barone e il cugino Giuseppe dichiararono che si sarebbero accontentati delle scuse meno formali. Ma Reginbar, il cui principio era di non cedere mai e che teneva a difendere l'onore di Arnoux, chiese che fosse il visconte a presentare delle scuse. Comin fu disgustato da tanta impertinenza. Il cittadino non mollava. Impossibile ogni conciliazione. Dovevano dunque battersi. Sorsero altre difficoltà. La scelta delle armi spettava di diritto a Sisi, che era l'offeso, ma Reginbar sostenne che con l'invio del cartello di sfida il visconte si era costituito offensore. Decisero alla fine di rimettere la decisione a dei militari e i quattro testimoni uscirono per andare a consultare qualche ufficiale nella prima caserma. Risultò che la scelta dell'arma spettava a Sisi, il quale si abbandonò a questo punto a un disordinato flusso di parole. Voleva battersi col fucile a trombone, a bruciapelo o con una semplice pistola, oppure mettiamo dell'arsenico in un bicchiere e tiriamo a sorte. A volte si fa, l'ho letto da qualche parte. Il barone, non molto paziente per natura, ricorse alla durezza. I signori aspettano la sua risposta. Andiamo, su, è una cosa indecorosa, eh? Che cos'è che sceglie, eh? La spada? Il visconte rispose sì, con un cenno della testa. E fu stabilito di incontrarsi il giorno dopo alle 7 precise a Porte Maillot. Fu Reginbar ad avvertire Federico. Era rimasto tutto il giorno senza sapere niente. La sua impazienza s'era fatta intollerabile. «Tanto meglio!» gridò. Il cittadino parve soddisfatto del suo contegno. «Pretendevano delle scuse, ci crederebbe? Una cosa da niente, appena una parola! Ma io li ho fatti correre. Non c'era altro da fare, no?» «Naturale», disse Federico, non riuscendo a non pensare che avrebbe fatto meglio a scegliersi un altro padrino. Poi, rimasto solo, si ripeté ad alta voce «Sto per battermi! Guarda un po'! Sto per battermi! Che strano!» Andava su e giù per la stanza e, passando davanti allo specchio, si accorse di essere pallido. «Non avrò mica paura!» L'idea di poter avere paura sul terreno gli mise addosso un'angoscia abominevole. E se restassi ucciso dopo tutto? Mio padre è morto proprio in questo modo. Sì, resterò ucciso. Thank you. Federico scese in giardino. Le stelle brillavano e lui si fermò a contemplarle. L'idea di battersi per una donna gli dava una misura più grande e più nobile di se stesso. Si mise tranquillamente a letto. Per Sisi fu tutt'altra faccenda. Andato via il barone, il cugino s'era sforzato di tirargli su il morale e vedendo che il visconte restava freddo, naturalmente, vecchio mio, se preferisci non farne nulla, andrò io ad avvertirli. Sisi non ebbe il coraggio di rispondere, sì, certo, ma concepì del rancore verso il cugino che non aveva pensato di rendergli quel servigio senza parlarne. Si augurava che Federico durante la notte morisse di un attacco apoplettico o che per un'improvvisa sommossa ci fossero l'indomani abbastanza barricate da bloccare tutti gli accessi al Bois de Boulogne. Sarebbe scappato via con un direttissimo, non importa dove. Tuttavia, se il coraggio consiste nella volontà di dominare la propria debolezza, il visconte fu coraggioso. Alla vista dei padrini che venivano a prenderlo, si irrigidì con tutte le sue forze, reso conscio dalla sua vanità che indietreggiando si sarebbe perduto. Comin lo complimentò per il suo bell'aspetto. Alle 7:10 giunsero a Port-Maillot. Federico e i suoi testimoni, tutti e tre vestiti di nero, erano già là. Regimbar, al posto della cravatta, aveva un colletto di crine da soldato e portava con sé una specie d'astuccio da violino, adattissimo per avventure del genere. Si salutarono freddamente. Poi si inoltrarono tutti nella foresta in cerca di un posto adatto. Senza fermarsi, i testimoni frugavano con gli occhi ai due lati della strada. Alla fine s'arrestarono in una specie di triangolo erboso fra i pini. Il terreno fu delimitato in modo da ripartire equamente livelli e pendenze del suolo. Furono segnati i punti in cui dovevano piazzarsi i due avversari. Poi Regimbar dischiuse il suo astuccio. Sopra un'imbottitura di pelle rossa v'erano posate quattro bellissime spade, con una profonda scanalatura centrale e le impugnature filigranate. Un raggio di sole cadde, attraversando i rami degli alberi, sopra le lame, che parvero a Sisi brillare come vipere d'argento sopra uno stagno di sangue. Gli avversari erano uno di fronte all'altro, coi testimoni ai due lati. Regimbar diede il segnale. «Avanti!» Sisi si fece spaventosamente pallido. La punta della sua lama tremava come un frustino. La testa gli si rovesciava indietro, le braccia s'aprirono, cadde sulla schiena svenuto. Il cugino lo sollevò e si mise a scuoterlo con vigore, ficcandogli sotto il naso intanto una boccetta. Il visconte riaprì gli occhi, poi, tutto a un tratto, fece un salto e raccolse furiosamente la spada. Federico, che aveva tenuto la sua, l'aspettava con lo sguardo fisso e la mano levata. «Fermi! Fermi!» gridò una voce dalla strada e s'udiva intanto il rumore di un cavallo al galoppo e i rami spezzati della capota di un calessino. Un uomo ne sporgeva, agitando un fazzoletto e non smetteva di gridare «Fermi! Fermi!». Com'è? Pensando a un'irruzione della polizia, alzò il bastone. «Giù le armi, signori! Il visconte perde sangue!» «Io?» disse Sisi. In effetti, scivolando, s'era scorticato il pollice della mano sinistra. «Ma è stato nella caduta!» osservò Regimbar. Il barone fece finta di non sentire. Dal calessino, con un salto, era sceso Arnoux. «Arrivo troppo tardi!» «No, no! Oh, Dio sia lodato!» Stringeva a sé Federico a piene braccia, lo palpava, gli copriva il volto di baci. «So il motivo. Lei ha voluto difendere il suo vecchio amico. È stato bello, bello, molto bello da parte sua. Non lo dimenticherò. Ah, che caro, che bravo ragazzo è lei!» Contemplandolo, versava delle lacrime e nello stesso tempo rideva di gioia. Il barone si rivolse verso il cugino. «Credo che siamo di troppo in questa festicciola di famiglia. È tutto finito, signori, non è vero? Lei, visconte, si mette il braccio al collo. Eccole la mia sciarpa». Poi, con un gesto imperioso, «Su, senza rancore, dovete farlo!» I due combattenti si strinsero mollemente la mano. Il visconte, Comin e il cugino scomparvero da una parte. Federico andò via dall'altra insieme ai suoi amici. Thank you. Bimbar si sentiva offeso perché lo scontro era stato interrotto sul più bello. Arnone aveva avuto sentore tramite un amico di Reginbar e in uno slancio del cuore era corso per impedirlo, convinto d'altra parte d'essere lui la causa. Pregò Federico di fornirgli al riguardo qualche particolare. Federico, commosso da quelle prove d'affetto, si fece scrupolo d'aumentare la sua illusione. «Non parliamone più, la prego». Tanto riserbo parve ad Arnù squisitamente delicato. Anche se a Federico venne in mente di ricordargli i suoi 15.000 franchi, il suo ultimo gesto gli impediva qualsiasi rimprovero, anche il più dolce. E il posto poi non era adatto. Rimandò tutto a un'altra occasione. A Dussardier invece era riconoscente per la devozione dimostratagli e dietro le sue insistenze il commesso giunse ben presto a fargli visita tutti i giorni. Federico gli prestava dei libri. Il bravo ragazzo lo ascoltava rapito e accettava le sue opinioni come quelle di un maestro. Una sera arrivò tutto spaventato. Quel mattino, sul boulevard, un uomo che correva per di fiato era andato a sbattergli contro e, riconoscendolo per un amico di Senecal, gli aveva detto «L'hanno preso! Io scappo!» Era proprio vero. Dussardier aveva passato la giornata a raccogliere informazioni. Senecal si trovava sotto chiave con un'imputazione di reato politico. Era entrato a far parte, come chimico, del complotto delle bombe incendiarie ed era stato sorpreso con una certa polvere che avrebbe dovuto sperimentare a Montmartre nel supremo tentativo di instaurare la Repubblica. Dussardier non era un fautore meno appassionato, convinto com'era che essa significasse libertà e felicità per tutti. Tutto il male sparso per il mondo lo attribuiva ingenuamente al potere, che odiava di un odio essenziale e permanente, tale da tenergli completamente il cuore e da raffinare la sua sensibilità. Le tirate di Senecal lo avevano abbacinato. Colpevole o non colpevole che fosse, e per odiosa che potesse apparire la sua impresa, non aveva importanza. Era una vittima del potere, dunque bisognava aiutarlo. Federico cercò di conoscere la sorte di Senecal dai giornali e per 3 settimane frequentò i circoli di lettura. Un giorno, uscendo da uno di questi circoli, vide gente ferma davanti alla vetrina di un mercante di quadri. Guardavano un ritratto di donna che aveva in basso una dicitura in lettere nere: «Mademoiselle Rosannette Bron, proprietà Federico Moreau Nogent». Era proprio lei, o quasi. Vista di faccia, seno scoperto, capelli sciolti e fra le mani una borsetta di velluto rosso. Da dietro un pavone sporgeva il becco sopra la sua spalla, nascondendo il muro con le sue grandi piume aperte a ventaglio. Pellerin aveva combinato la mostra per costringere Federico a pagare, convinto di essere celebre e che tutta Parigi, mettendosi in agitazione a suo favore, si sarebbe occupata di quella miseria. Thank you.